c'era. Che è avanti. Ciao Gian, Natalino. Ma prima non eri tu, perché il socio, la portata era di un film. Non lo so, tanto scopre fare. Poi ho sentito la radio. Poi sono andato lì a fare la visita. Tutto a posto, 10 decimi tutti e due uno. Ne ha fatte. Perché Natalino? Perché sì, e chi ce li ha 10 decimi? Vabbè. Comunque vedo bene. Poi mi ha fatto fundoso culo e mi ha detto che non c'è nessuna traccia di retinite diabetica. Ho capito. No, io devo fare solo le analisi del sangue, devo fare le urine. Perché devo andare il giorno 5. Indagane certo. Poi sono andato da poco, Natalino. Le urine cosa devo fare a dicembre? Cosa? A dicembre le urine e il sangue. No, io a luglio devo andare. La premeditazione. Perché poi mi ha detto che vanno in ferie, quindi ha preso l'appuntamento e sono andato poco, una settimana fa sono andato. Sì, andavo a Filotti, mi rivolto così a Romacco, virato, parla di circo, mi pariamo domani. Comunque, come si dice, non dicono mai niente quando cambiano, cazzo. C'è la Graziano, non ne sapevo, devo andare a fare la visita in questi giorni, dopo domani ce l'ho io la visita, già lo sai che hanno cambiato, e già lo so, la palatina H, no, adesso è la Q, non lo sapevi? No, non sapevo niente, è la prima cosa che sento. Adesso cos'è? Palazzina Q, così è, come Quebec. Sei già andato tu? No, negativo. Io andavo alla Palazzina H l'ultima volta, sono andato. L'occultamento del cadavere. Adesso vuol dire che me lo farò dire dove questa Palazzina Q. Te lo dico io. Allora scendi per andare dai carabinieri, poco prima dei carabinieri c'è una traversa, ci sono delle fesi che c'è scritto vaccini, tamponi, giri lì a destra e fate un yuku. Prima di arrivare ai carabinieri è così. Eia, c'è una traversina sulla destra, c'è scritto vaccini e cose varie. Entri lì, c'è il primo parcheggio, quello lo devi lasciare stare, perché quello lì è il parcheggio dei dipendenti, tanto ti fanno tornare indietro a prendere la macchina, quindi no, fai strada inutilmente. Se tu hai difficoltà a camminare, glielo dici e te la fanno mettere proprio davanti alla porta. Glielo dico che ho difficoltà a camminare. Guarda, io sono portata a escludere che lui si chiama. Ma chi c'è lì? Le guardie ci sono. Sì, ci sono quelle guardie, non guardie, sono quegli uscieri, come chiamarli, non lo so, sono armate, sono guardie giurate ma non armate. Servizio di portierato, là. Acquistato un carretto. Esatto. Anche dentro ci sono, come tu arrivi, dentro la reception c'è una ragazza solitamente che ti chiede con chi c'è l'appuntamento, fa il bigliettino e glielo mette sulla scrivania. Però loro dovrebbero avvisare, non è, io l'ho saputo da Tonino, che se no non sa più nulla, nemmeno qui. Infatti, io l'ho saputo da lui che avevano cambiato, se no da chi l'avrei saputo? Non avvisano un cazzo questi. Oh, Gigi Bella della Milizia, diciamo ora sei la capitaneria con Tonino, no? Per fare il permesso. Io gli faccio, devo rinnovare il permesso, lui invece lo deve fare proprio. Me lo dice il suo nome, dai Tonino, dai, il nome, cognome, tutto quanto. Dice, ma qua lì l'ha fatto da poco questo. Ma sta scherzando, io non sono mai venuto qua. Lui risalta il cazzo, non è possibile, non sono io. Allora il suo numero di codice, gliel'ha detto. Sì, è mio, abito lì. E allora è lì, ti ha detto, non è un omonimo, è lì. E non sai cosa, sicuramente cosa ha fatto. L'altro giorno, quando lui stava manovrando col computer, si è registrato, però a sua insaputa, perché risultava anche registrato da poco. E allora è dove si è registrato? Ma il permesso gliel'hanno stampato? Sì, a tutti e due, anche a me. Adesso scade a dicembre. Siamo andati, mi ha accompagnato perché dovevo fare quella visita, poi già lo sai che si mettono la troppina e non vedo un cavolo, ma questa volta non mi ha disturbato più di tanto, lo sai. Magari avranno cambiato medicinale, boh, e bisogna vedere com'era la situazione. Io sono andato alla giura in macchina, gatto, quando mi hanno buttato la troppina, poi me ne sono andato. La canta giubata arrivi. No, no, non so guidare no, dopo la troppina, devi metterti gli occhiali scuri se no, perché sono dilatate le pupille, capite? Come se tu fossi in piena notte. Lo so che sono dilatate, già lo so che non devi guidare, ma se non va via nessuno, come ti va zio? E tu perché non parli? E oia, vabbè, mo vediamo. Adesso, la lì li ho presi, mi sa. Ah, lì. Oia. Scusa, lui siamo andati in bova, è nata lì. E infatti, come già a fare 100 metri mi dà fastidio perché mi viene quel dolore lì e mi devo sedere per forza. Meno male c'è il gradino prima della porta del garage e mi siedo lì perché mi viene un dolore tremendo. E più di me non ti può capire nessuno, Natale, li ho avuti anch'io questi problemi. Mi dovevo sedere su un muretto quando portavo a battaglia perché non ce la facevo più. Infatti, c'è un muretto lì vicino al mercato e mi siedo lì perché sennò come ti va? Cazzo. L'altra volta che ero in fretta non ce la facevo a guidare perché mi faceva troppo male. Cappa gatto. Vabbè, Natali. Operati così almeno ti bacia a due. Bisogna vedere se mi opereggiano. Adesso c'è un'amica di mia moglie che è chirurga, gli faccio vedere l'ecografia e tutto, vediamo se riesco a farmi operare questo cazzo di gamba. Eia, per carità. Ma pur di non soffrire, Natali, fate operare, buonanotte. Sì, infatti, se mi operano, bisogna vedere se mi opereggiano i battagli. Io sono una di già, un dito goso dell'anca, ohia, non posso fare nulla. Lo so che non puoi fare nulla. Se stavo arrivando a comprarmi un motorino per poter andare al garage, per non andare a piedi così, perché non mi posso proprio muovere, è un casino. Ma prima del motorino io avrei fatto un'altra cosa, perché il motorino poi se c'è i dolori qua non è il massimo. Ma andare. Ma togli tu le hai lì per andare a laterale. Gianni, che sono andato a aprire la porta. Ho detto, ce l'hai la banda laterale lì? Sì. Possiamo andare in questo canale in banda laterale un attimino, perché ieri non mi stava funzionando la banda laterale nel garage. E gli ho messo lo spray, adesso sembra che stia andando, ma tu devi essere sicuro. Vai in USB. Vai da M. Adesso è ricentrato. Quando mi ha detto di passare una M. Sì, ma è una M, bello. Cazzo, bubu. Mi ha detto vai in AM e ti ho sentito bene. Era in AM però quando te l'ho detto, non era un USB. E allora vuole riallineato, perché questo è nuovo l'apparecchio e parlavo bene con tutti. Quando facevo di Exavar, no, che faccio un'antenna 10 mezzo metro dalla gabitura, la punta e boh. Ma se ieri che non è successo, forse il caldo, si è messo a camminare in un frequentimetro di corpo. Camminava e poi c'era solo tre cifre, quelli di davanti non funzionavano. Ha detto, lo aspetto, non riacceso, si è ripreso. Poi siamo andati in magalatura e non mi sentivano, proprio niente, non mi sentivano nulla. E evidentemente vuole riallineato, e pure allineamento. Magari non è stato mai allineato quel Galaxy e se n'è andato a fanguarla. Probabile, col caldo. No, è l'usura, è l'usura. Ogni tanto vogliono controllarti. E vabbè, questi abiti zoppo non ci vanno mai in banda laterale. E io invece la usavo molto, adesso non posso usarla più perché non c'ho antenna praticamente. Come non c'è antenna? E con cosa si scendi? Ehi, ma lo sai cos'è? C'è la punta di mezzo metro dal tetto, non di più. Non senta nessuno, tutti arrivano bassi perché è troppo attaccata al muro e quindi non sta andando. C'ho QRM7 sempre, peggio di quando c'avevo quell'antenna vecchia. Se non me la fa mettere sul tetto non so cosa fare. O me la tolgo del tutto, così abbiamo risolto i problemi. Preso un piccolo dice che sono morto perché dice sempre gente ignorante, che capito. No, se me la tolgo i problemi spariscono, perché così non modulo più e non mi rompono le balle. No, attimino quello che che c'è i fantasmi. I signori dei fantasmi. Buonasera, Nino, Tonino, Gabbio. E poi Gianni Berattolino. Ciao Tony, buonasera. Oh iaia, vedo casino. Ho dovuto mettere l'antenna più bassa, era troppo pericolosa come era messa. Poi i domini lì la prenda puttà in modo che mi ingaggi in terra, figureggiate un po' caridu. 9,5 rotoli, sei basso. Già lo so che sono basso, sono con due bassi, dicimi. Avanza, più forte arrivi avanti. 9,10. Di più non posso fare. Prima arrivavi 9,25. Avanza, cos'è senza antenna si può dire. Ero grido. Comunque io devo fare un appello, Gianni. Avanti. Regalo Vox francese, originale. Lo stai regalando? Uno sì, perché l'ha preso mia figlia, te l'ho fatto vedere. Mi ha chiamato oggi, mi ha detto no, mi tira troppo e mi fa cadere, non lo voglio più. Picchiata. Non lo so io chi lo può volere, io no, non posso prenderlo, ce l'ho già. Lo so, è vaccinato, è sterilizzato e tutto quanto. E anche il microchip. Crei il microchip di chi è? Dell'altro padrone? No, il microchip è mia figlia, ma ha detto che costa, si è fermata, 7 euro per capire la mano. Ho capito. Oh, stiamo regalando qui, chi lo vuole? Se non l'avessi avuto te l'avrei preso io. È bellino, è di razza, pure capito. È bravo, buona zona, dice senti, si siede, no, tu butta uova. Poi, la tira troppo, basta prendere di quei guinzagli, non è detto che sono quei guinzagli che si allungano. La roba è quello lì, non è falsica. No, ci sono quelli larghi, ci sono quelli più larghi per cani più grossi. Guarda se senti qualcuno che la vuole, anche tu Natali, guarda se senti qualcuno. Ok, riferirò. Cappa di Roger, è troppo caldo qua. Io dovrei andare anche a comprare il suo capo mio fratello per il decoder, vuole la presa a scatti, ma sta uno spinotto maschio e femmina qua, allo televisore. Cos'è? Femmina o maschio quello? Non ho capito. È femmina o maschio il cane? Maschio. Aspetta che chiamo, prova a chiamare la Grazia per se lo vuole, lui solitamente li ama questi animali, con lui c'è il posto. Gianni, non fa, ho già pensato, perché anche lì ha trovato un gatto, aveva a cane, l'ha messo anche sull'occasione, no, ti spiego perché, in poche parole. Allora, questa persona l'ha messo su Facebook, mia figlia si è innamorata, l'ha chiamata, la voglio io, lo voglio io, sono andati insieme, eccetera, eccetera, gliel'ha dato, e poi cosa lo rivede di nuovo su Facebook, sticca, si l'ha pigliato, hai bisogno di nana, e va a trovare su Facebook, no dai, va male. Cioè se uno lo vuole, scusi, se lo prende direttamente, boh. Capolino. E io a uscire ho trovato un bagaglio, dovrei andare poi a prendere il suo cavo di spinotto, mio fratello, per il decorrere. Mi ero un po' delicato, troppo un gaglio. Troppo, io lo sto sciogliendo, sono in mutande, sto sciogliendo. Ma io ci ho ritenuto le gambe acceso. Già metto il condizionatore per la notte mia. Mi stanno problemi di gara, si manda laterale. Oh. provo ad andare in USB a vedere se mi ascolti. E che canale? Qua, 5 minuti. Uniforme Siena Bravo? Yes. Ok, vado. Via. Ho detto, sentivo anche Natalino, chiaro chiaro. Anche Natalino mi sentiva. Sentivo io Natalino pure. Ah, ma lui dice che non mi sente bene. È un casino con questi apparecchi. Sono spostato. Qualche cosa c'ha perché ieri ha cominciato a correre il coso, il frequenzimetro, se metteva a correre da solo, poi l'ho spento, l'ho riacceso, ho il caldo. Quando qui mi è giusto sopra il fisso 27.075. Eravate spostati, ho dovuto spostare il clarifier per centrarvi, capito? Ma lo sposti di poco, non è che sposti la frequenza proprio da lì. Bisogna vedere se è spostato quello, io a Torino lo sentivo bene. E io anche a te Gianni. Magari perché sono gli stessi apparecchi e si capiscono. E lui sposta il fine corsa qui, non lo mette in dubbio. Però sposta di pochi millimetri che riesce a centrare. Non è che lui spostando ti sposta anche l'ultima cifra del frequenzimetro da 5 diventa 4, 3 o 2, no? Per il cano io ce l'ho fisso, non si muove, però il caldo che lo fa. Diciamo il cambiamento termico che fa queste cose qua. L'antenna sarà bollente, meglio così il vulcanizzante si scioglie meglio e attacca di più. Natalino. Oh ya, yeah, già sono qui. Sto dicendo, non è che ti sei spostato di molto, cioè dalla 27.075 sei andato a 27.072. No, eravate 75 più 4, perché questo mi dice anche dove siete, capito? Ecco, a me mi dà 27.075, non c'è altra cifra, capito? Quindi automaticamente questo ancora 0.4, a me non me lo dà, non ce l'ho, io c'ho le tasse, e già con le 5 cifre. Lo so, questo invece mi dà anche le cifre decimali, ecco perché... Eravate in più invece che in meno. Ma io ripeto, se ti ho bene a Gianni, a te, e mi dava sempre la frequenza giusta, 27.075, non basta. Vabbè dai, passiamo ad altro, non fa nulla, vuol dire siamo spostati giù. Quanto stavo dicendo, Torino ti deve raccontare una cosa, l'altra. Racconta Doni, racconta. Ah, ho capito, devo dire ciò che è successo quando sono andato a vedere il tazzetta. No, capitale di io. E tu hai detto, io devo raccontarti qualcosa. Ebbene, dai, anche quello bisogna raccontarlo a Natalino. Siamo andati a vedere Tazzetta, abbiamo posizionato la macchina, tutto fatto. Abbiamo visto la prima fila Tazzetta, per complesso, per la musica, tutto fatto. Quando poi siamo ritornati indietro a prendere la macchina, caso strano, Gianni, non so cosa ha fatto, l'ho visto arrostrato per terra e caduto a sacco morto. Sì, già me l'aveva detto quello. Ehi, che poi sempre ti metti la su, ma se pesi un quintale. Io ti ho detto, non sollevatevi perché ho un po' di esperienza in queste cose, no? Quando uno cade, a corpo caldo non sente nulla. Secondo cosa c'ho, se mi sollevi mi fai più danno che altro, per quello vi ho detto non mi sollevate, mi sollevo io se ci riesco. Per quello non volevo che mi sollevate, capito? Ah, poi vuoi raccontare quello di stamattina? Sì. Comunque la verità, Gianni, io sono sicuro che quando circa 2 settimane fa, più o meno una cosa del, non mi ricordo la data, io ho stampato quei fogli per il permesso per pescare, io mi sono iscritto ma manco lo sapevo. Vado lì, andato lì, capito nel porto e dico non mi sono mai iscritto, mi deve fare il permesso, ma detto non l'hai già iscritto, ma non fuori di semo. C'è solo forse la figura di cacca, ho detto, ma guarda, io le giuro a tua madre, ma non l'ho mai fatto. E ti giuro, non l'ho mai fatto. Niente di strano, che quando io 2 settimane fa ho detto sì, tu mi hai trovato di entrare in tal posto, fare questo, fare quello, te l'ho fatto, ma non mi ha dato nessun risultato, quindi ho detto non sono iscritto. E lì il risultato è scritto. Sì, perché non sei andato dove dovevi scaricarlo, evidentemente. Però l'iscrizione già risulta se la fai. Capito? loro ce l'hanno diretta, a loro gli viene più facile, capito? Ma dici che io l'ho già scritto, mi ha fatto la fotocopia, l'ha dato. Cioè, praticamente io non avevo mai scritto niente, strano che involontariamente io col telefonino sono riuscito a scrivermi. È così, Toni, non è possibile se no diversamente. Chi è che sapeva i tuoi dati della carta? Come si chiama? Non è possibile, dai. C'erano tutti i dati della carta, dove abitavi, chi cacchio le sa queste cose? Aspetta Gianni, c'è un problema ancora di più, perché praticamente c'è scritto data di iscrizione 2011, ma non fu siamo. E magari eri iscritto dal 2011, cazzo. Magari non te lo ricordi, tu però eri già iscritto. L'iscrizione risulta, capito? Poi il permesso stampato te l'hanno, perché loro lo stampano subito, ce l'hanno diretto loro e gli viene più facile. Sì, me l'ha stampato, ma io nel 2011 non ci sono mai andato, se lo sapevo neanche dove era a fare questo permesso, poi sono andata lì. Non so dice da male, perché ripeto, grazie a Dio non mi volevo farlo, non l'ho mai fatto, mai, mai e poi mai, ad applicare e beh, e allora questa iscrizione dal 2011 come fa a risultare? O hai sbagliato tu scrivendo? Non lo so, non lo so, non lo so. Io sono entrato soltanto in quel sito, quello che mi hai detto tu da poco. Basta, non ho fatto altro. Manco ne sapevo io. Sì, vabbè, l'ho permesso là, è a Fucidini. Allora, fin a dicembre puoi andare a Canto di Bari e ti biazzi. E capo, adesso sì, sono a posto, anche già se l'ho rinnovato. Avanti già. Ci hanno messo 5 minuti in Natalia a rinnovarselo, perché il mio c'avevo il vecchio, capito? Quindi da lì hanno preso i dati, sono entrati nel mio e hanno preso i dati e l'hanno rinnovato. Ah, ci hanno messo questa garibuccia, 5 minuti a farlo. Poi hanno fatto anche quello di Torino, nel mio l'hanno stampato subito, poi l'hanno chiesto a Torino, sono 9 cognomi, c'è tanto non ci sono, ieri c'è che mi c'è 9 cognomi. Che poi ha detto lei l'ha rinnovato a poco, io la buffonella sì, e io glielo giuro sono troppo a mia madre. Ma poi dice l'ho rinnovato a poco, assolutamente, forse quando sono entrato nel sito poco tempo fa l'avrò rinnovato, ma mi sembra strano, 2011 pare, ho fatto casino io scrivendo boh. Le ha detto, lei sta dicendo le bugie. E beh, è logico che l'ha detto di così, ma cosa si è rinunciava, ad imputanti che l'ha già ne stampato, la buia a gennaio vai e te lo rinnovi, e vai quando ti pare ti piace, cazzo molto ci vuole. Quindi da gennaio a dicembre, giusto? E allora, dura un anno, dura, ogni anno scade a dicembre, il 31 dicembre scade, c'è la data di scadenza, no? Vai e te lo rinnovi e tu sei sempre in regola. Ma cosa dici che è una multa paurosa si ti fermani e non l'hai? Me l'ha spiegato, gliel'ho chiesto. Ci sono 15 giorni di tempo per farlo. Se tu non lo fai quando ti trovano e non ce l'hai, se non lo fai entro 15 giorni ti arriva la multa. Figurati. Ed è un bel fumo, più di 1000 euro. Basta a gennaio, andare e te lo rinnovi. Cazzo molto ci vuole e non c'è pericolo di nulla. Una volta che l'hai, dai e basta. Natalia, adesso che lo so, so dove andare, lo so fare io tranquillamente, sì. Gara, gara. E vabbè. Poi c'era un amico mio lì e faceva i corsi, tutti i documenti. Detto, non ci vediamo più a Porto Torres perché sono, non ci sono più a lavoro. Ah, davvero, è lavora. Che ne sono i soldi? Se vedi io purtroppo devo uscire, poi dico purtroppo, metto l'aria condizionata in macchina, pazienza. Abbia anche un capo, mi ha fatto che la televisione non la vedrei, si è fatto arrivare questo decoder, mi manca, mi sembra strano che il decoder che è nato nuovo, non c'è lo spezzone, per attaccare il decoder TV. Allora devo andare io a pigliarvi il dito, dice dai, come lo compri, poi dire soldi, vabbè dai. Vuole la presa scarpa, fa Napoli e tu la presa scarpa. Ah, c'è ancora quello con la presa scarpa. E non c'è quello che c'è l'ingresso. Ho trovato appuntamento, maschio e femmina. Le cose TV, no signore, è puntato, vuole la presa scarpa, piglia della luce, mi dà miglia, buonanotte. troppo latte adesso, non ne ho più. Ce l'ho buttato un decoder io, se lo sapevo te l'aprirà. Ma ce l'ho anch'io il corporato Gianni, sia quello che mi hanno detto che quello che c'è cucina, è stato a Pulici. Purtroppo è dopo visto e vabbè, se la piglia all'occhio. C'è caldo Ettore, copriti bene. Mi metto il cappotto, sombrero e il piumone. Hai visto quelli di colore cosa fanno? Più caldo c'è più si copre. E poi loro sono abituati. Sì. Si coprono e che sia bianca la roba. Capito? Tony pone di bururu arresta la messicana, mi. Oia, io mi metto il sedere nel freezer, il pozzetto, faccio prima, mi raffresco il QSO. E non fare come Falcone che entrava nella cabina con i sombrini e i cugnari barriati la porta. Quello me lo racconta, quasi non conviene. Quanto siete monelli, La cosa monelli, siamo bravi, anche troppo con te che tu ci pirino la peste. Hai te, Natalì? No, questo non lo devi dire, Non lo devi dire che Tonino è pieno a pezzi e non lo devi dire. Ok. Bravo, Natalì, difendimi. Oh, yeah. Andave. Io stavo troppo, mi ha detto l'oculista Natalì, che stavo troppo al computer, per quello mi bruciavano gli occhi. Chi c'è feo mi? Chi c'è fugato al telefono, al computer? Cazzo è un macello così mi. Mi ha detto quando è così di smettere un po' di usare il computer e di usare quel collirio per riposare gli occhi. Infatti, se si è arrivato a bruciarti i rucci vuol dire che sta chi c'è un bel di tempo attaccato a questo marasucci del computer. Ma guardaci che abbiamo avuto anche una congiuntivite, secondo me, qualche congiuntivite perché ci facevano rossi, va, mi bruciavano da morire. Meno male che è passato il periodo. Ho cambiato anche la gradazione, da 2,5 l'ho preso a 3 e probabilmente neanche quello. L'impulsante però che quando vedi che poco a poco ti bruciano ti metti il collirio e smetti di guardarlo questo cazzo di computer. Ti fa rovinare i girucci, se no. E infatti ci sono gli occhiali appositi. Tony, ma andato stai? Andato stai. Io adesso mi sono messo le scarpe. Adesso vado, faccio una scappata veloce, a media world, buonanotte, dai. Oh, yeah. Devi comprare il cavo già pronto. Cappa. Perché hai detto basta un cavetto maschio e femmina, te lo faccio io. Non da va, vola più le scarpe, quando si fissa come ti rivinci, va bene, quasi 80 anni, ma. 80 anni? Più grande di te. 10 anni. Io le compio al 6 settembre 69 e lui le compio al 79. All'altro anno lui ha 80 anni. Il tempo passa. Allora Tari, ma Antonello Dindice, quanti anni c'ha Lucifer? Lucifer è più mano di me, avrà più di 70 anni, penso. Ma se il tempo te ne ricordi che andava a massacro fuori, tutti i giovincelli la va. Lo credo, ma è sempre in forma mia Antonello. Cazzo, sempre vedo tirato. Fa ginnastica la mattina, va fuzzi. Già lo so. Sempre in baffetti. Cosa? Sempre in baffetti. Baffetti. E baffetti da dentice c'ha. C'ha gli occhi come un furetto. Quello che avevamo dentice perché. Racconta proprio di male sulla pesca, cazzo. Una volta andiamo io e lui a pescare, io ho pescato e lui non ha pescato un letto, già io passiamo al magazzino del pesce che se lo butto di giro mia madre. Si è comparato un'orata e dentro invece ha trovato il polpo e il polpo mica ce l'ha buttato, l'ha fatto mangiare alla madre. E poi ha ciappato a mia moglie, a Rubonti, l'ha detto, e lì abbiamo pescato bene oggi, siccome mia moglie sapeva già tutta la storia, ti ha stessi al mercato e pescato tu. Voglio figura. Ecco, io lo grido, pure 50 euro e poi si beccaremmi. Così non le vale la pena. Vabbè dai. Ma così, come mi dispiace, ma devo andare, se no vi dico, poveraccio, mi rompo la palla a telefono. Ci sentiamo, ciao Natalina, ciao Gianni, alle prossime, ciao ciao. Mi dispiace, devo andare, ciao Tony. Mia posa è lì, sale. Vai al caldo a scottare. Tonino, buona questa greca. Poniti l'aria condizionata, sennò dici per cagliabiru. Se no mi posso biotto. È uscito, è Tonito. Ciao ciao. Ciao ciao Tony, ci sentiamo, dai. Avanti una E cappa. Oh iaia. Yeah, yeah. Ma a me mi stanno lacrimando gli occhi, dimmi tu. Ma. E anche a me mi lacrimavano e mi bruciavano. E che ti stavo dicendo? Abbiamo fatto questo permesso, ma non so neanche io perché l'ho fatto, perché fossi per pescare, mi pare che non viene più. Boh. E mi ha da piccare. In estate alle 8 del mattino bisogna che smetti. Dalle 8 alle 8 di sera mi pare che sia, che non vi vuoi andare a picca. No, puoi andare dalle 8 di sera fino alle 8 di mattino. E io di notte vado sempre, quindi non ci vado al caldo io a pescare, non mi piace. A crema di gatto, vado sempre la sera dalle 8 in poi, comincio a metterci in portacarra con le canne sopra, anche se c'è gente, come si allontana la gente, e poi prendo e metto a pescare. E infatti, anch'io andavo di notte, di giorno da notte che nuda da buio. Di giorno se vai di mattina presto ti apprendi, però fino alle 9 dopo ti devi pure andare, dalle 4 e mezza a 5 fino alle 9, massimo proprio 10, poi no, c'è troppo caldo, non ci può stare. Io andavo a quell'ora lì. Anche la mattina presto andavo, ma adesso col cane come faccio? E ti vuoi sicura Edu? E così già pesco. E cos'è? Perché? Il cane intanto rimane vicino a Sammy. No, lui gira, è girellone lui. E allora mi uriada, che logo. Peccato quel cane, se avessi avuto il posto l'avrei preso io. È bello, è un bulldog francese. Sì, lo so, ma tu vai a Tyson, come fai? Io lo stesso ci ho accurto, se no me l'avrei preso io al limite. Però, guarda Ghiccio, ti è macio, ma stessi. Sono spese dubbie. E due vaccini, se si ammalano, sono due cani, non è più uno, tutte spese dubbie sono. Già faccio i pappagalli, ne fanno spendere 50 euro ogni due mesi. Sono spese sì. Ogni due mesi io per comprare il mangime spendo 50 euro per i pappagalli. Perché sono 45 e poi siccome me lo fa Marco, non può mettere i soldi, 45 euro non li può mettere, quindi devo dare 50 euro per mettersi nella carta. E allora ogni volta sono 50 euro, se l'avessero venduto a Sassari di meno l'avrei preso, ma non ne vendono col mangimelli, non lo vendono, solo fuori lo trucco. Non capisco perché non lo debbano vendere a Sassari. Boh, cazzo, proprio un diacuto l'ultimo di Gesù Cristo. Perché mangime per nettarini, praticamente è una farina fatta di avanzi di paste, di pasticceria, avanzi di pasticceria, miele, poi nettare, piccoli semini, ma piccoli sono proprio impercettibili perché loro i semini mangiano solo quelli, quelli piccolini. E niente, poi bisogna impastarglielo come si fa con le pappe dei bambini, la stessa cosa, lo devi fare tipo yogurt così e loro lo mangiano. Oppure glielo metti in polvere così e poi loro ci vanno nell'acqua e bevono, ma fanno un casino, sporcano tutta l'acqua. Conviene farne lo tubo e così almeno non sporcano l'acqua. Infatti. E adesso stamattina per dire non li ho fatti uscire, saranno, avranno voglia di uscire, ma poi se escono non posso fare altro, devo stare con loro, capito? Perché la sai cosa fanno? Se ne vanno sul mobile, prendono la carta che c'è sopra per coprire sopra il mobile, io metto la carta per evitare ori o questa roba qua, per assorbire la polvere eccetera. E non la fanno più meno, bisognerà fare il giusto. Lo so, purtroppo sono animali, cosa vuoi fare? C'è stato uno che ha detto davvero. Ma è vero, Natalia. Ciao Gianni, buonasera, ciao anche Natalino, buonasera. Grazie già adesso a vedere come mi state ascoltando. Bene, ti ho fatto questo scherzo del microfono. Ehi Afra, già ti ascoltiamo bene. Questo qui che apparecchio è? Il suo 80, praticamente c'era problemi sulla spira del microfono, che l'ho fatto tutto nuovo. Volevo sapere se sta facendo bene, dai. Sì. Alle 20:60. Dabba. Come mai dà problemi? Sta sempre fermo quel microfono, non è che lo sposti, no? Che strano. E il filante rotto c'era, la spirale come che prende dall'apparecchio al connettore del microfono, capito? Adesso che l'ho fatto nuovo così, ho risolto il problema. Ma dico, se che è un microfono palmare, lo tiri, lo fai, ma quello lì è un microfono che lasci fermo, e si faccia roba a testa. Era rosso e infrarotto, capito? Quando lo muovevi adesso ci vi adesso no. Ho capito. Andava, Natalina, avanti. Avanti, mi vendo tutto. Io ce l'ho un MC60, ce l'ho V508, il Turner più 3. Mi vendo tutto e mi compareggio la moto. Non è male l'idea. E rimane senza macchina. No, il baracchino ce l'ho, non lo sto usando il baracchino, c'ho anche l'altro omologato, c'ho un 23 canali, ma quelli non li do. Sì, c'ho un ICOM da vendere. Ma ICOM che frequenza c'è? 0,30. No, io non ne voglio. Troppi soldi ci vogliono, troppi soldi, non ne voglio più quindi. Fra, lo sai che l'ho fatto il permesso? Io me lo avevo fatto da internet. No, io non potevo farlo perché non c'ho stampante, nessuno si è prestato, anzi me lo stava facendo Luca, poi abbiamo lasciato perdere perché magari c'ha delle difficoltà e allora l'ho fatto direttamente in capitaneria, dai. Mi hanno fatto un computer, l'ho scaricato su PDF e me l'ho fatto stampare da qui. E quanta gente esce, mi metto a vettare. E io me l'ho stampato io lo stesso. Te l'ho detto che te lo stampavo io. Mi davi i dati e lo facevamo. A Londra. Ma non è obbligatorio che tu decidi, perché te l'ha detto. Stamattina siamo andati a fare quella visita, ne ho approfittato, l'ho fatto tutto insieme, alle 8 avevo la visita, alle 9 eravamo i capitani lì. E infatti è vato in prezzo. Allora io mi sono informato alla forestale e non è obbligatorio quel tesserino. E invece mi sono informato alla capitaneria e mi ha detto se ti trovano senza ti rilasciano il tempo di 15 giorni per farlo, se non lo fai ti arriva la buca a casa. Io mi sono fermato alla forestale, c'è un amico mio, Gino Macciunco, mi ha detto qua, la gabbellino, ma ce l'hai? Io ho detto sì, ma ascolto, ma tutti lì non rinnovare, fate ma delle domande. Vabbè, non è così come dici lui. Vabbè, la forestale non è compito loro, è compito della capitaneria, quello lì, quindi cosa ne sa. Stamattina ho chiesto io, c'era Torino davanti, fatelo dire da Torino, ti arriva oltre le 1000 euro di multa, se ti trovano dopo 15 giorni, se tu non lo fai, se ti trovano ti hanno 15 giorni di tempo per farlo, se non lo fai ti arriva la multa a casa, ti prendono tutti i dati quando ti trovano senza, se in caso tu non lo fai, a loro li risulta, se non lo fai, e ti arriva la multa. A me Gino mi ha detto così, loro controllano anche il mare, chi l'ha detto? La forestale controlla terra e mare, vedi già. Vabbè, ma non è una cosa prioritaria che hanno. Praticamente come si dice, è la capitaneria, si fermano col gommone, mica una volta sono venuti in spiaggia e ci hanno controllato, si sono fermati col gommone, sono scesi con la cartella, ci hanno preso nome e cognome, ci hanno fatto vedere, ci hanno chiesto i permessi, tutto quanto. E lì mi è proprio successo lì a Platamona, dove vado io a pescare, dove vai tu col camper, è successo proprio lì. Oh già, non so cosa dite, invece mi ha detto, io l'ho già rinnovato comunque, il problema non è, me l'ho già stampato, ma mi è scaduto a gennaio. A me a dicembre mi è scaduto, ma è inutile che le faccia, ma tu, perché tanto poi fra, non sai di andare mica, al molo non puoi più andare, al molo pescavo bene, io prendevo certe ombrine, allucinanti, anche da chilo e mezzo, a 2 kg. Pescavo bene, Messara, che di tutto, e lì non si può più andare, se ti trovano ti prendono l'attrezzatura, pescato e ti mettono multe esorbitanti. Al mare adesso c'è gente, se non vai un mezz'ora ti fatti la notte. No, non si può più pescare, è un casino. E poi la venuta, se vuoi prendere qualcosa la mattina presto, l'altro giorno ho provato, ho preso una mattina una marmoretta, boom, basta. E poi un'altra mattina ho preso un'oratta da 700 grammi. Ma non c'è più niente, alle in bici però, non lì, eh. Ah, senti, un picchio vai, fra, dove c'è l'autostrada, ma devi fare un lancio di almeno 150 metri, perché l'autostrada è lì. Se tu riesci a entrare nell'autostrada, quella che chiamano autostrada, che praticamente è un fossato dove vanno tutte le orate, prendi orate a gomma. Vabbè, prima della marina. A settimo picchio, fra, settimo picchio. Si entra dentro, c'è una passerella, passi questa passerella e poi arrivi in spiaggia. C'è il parcheggio, c'è tutto quanto. E lì ho visto gente, vabbè, ce n'erano due che facevano scuola di lancio, tanto ne ha lancio di bagliare, ci avevano orate 4-5, mi pare, di quelle grandi, non di quelle piccole, di 10 anni. Vabbè, io te lo devo dire, noi facciamo scuola di lancio, abbiamo un lancio di 150 metri, perché devi lanciare così, se no non ce la fai a prenderle, perché l'autostrada ha detto risulta a 150 metri di distanza dalla spiaggia. Facciamo lanci lunghi, ci abbiamo cane professionali, tutto quanto. Hanno preso una rata enorme e te l'hanno liberata, e tanto noi non la sappiamo cucinare. Cate ha detto, dalla me che te lo posso vedere come ti si cucina. Canne, ci vuole una canna, è buona. No, la canna ce li ho, quella è buona. Non è problema. Poi ho problemi di lancio, non lancio. Natalino gli ha rusato, ha tu lancio io. Allora vai lì e ti fai aggrogo, ti fai drogo. Al settimo picchio, però devi andare alla parte sinistra, perché devi fare un 60-70 metri a sinistra, perché lì è il punto buono. Ho capito dove. Sì, ma quelli che ho preso io li ho presi a lunga distanza, capito? Stanno fuori quelle orate grosse. Ma io c'ho il tender già. C'ho il tender da 3 metri e lo posso tirare anche a largo la resa. Non è un problema, posso tirare fino a 200 metri, 300. Ti stavo dicendo, lì prendi i granchetti, loro pescano sempre con i granchetti di sabbia, ti prendi una sardina, la leghi a una canna, un bastone con il filo elastico, lo metti nella battigia, quando escono vedi le bollicine, ti poni la mano e esci i granchi a 10 li prendi, li metti due rami, li togli le zampe di dietro, quelle che scappano, li metti là al posto delle zampe e uno glielo metti, già lo sai come, già lo sai fare. Uno lo metti girato e l'altro glielo metti dove ci sono le zampe e vedrai che vedi di per un... Allora, il granchio, per tenerlo bello vivo devi legare quel filo elastico, gli metti due rami, uno in testa e uno dietro col filo elastico, le prendi lo stesso e non lo ammazzi. Sì, ma non lo ammazzi, ma se glielo metti dove dico io, al posto delle zampe, se fanno entri da una parte di una zampa, di quelle che scappano lo fai uscire dall'altra parte, poveraccio, però così le prendi. Però già il problema non è quello, per il io già lo so come si ne è. Il problema se frutti forte, il granchio cesce dall'amo. Perché io quando frutto, frutto forte, il granchio cesce all'altra parte. Non li ricoffi l'elastico se hai proprio questa potenza. Che domanda Nazario? Nazario, dici. Ma che ti ho visto anche io lanciando, ci siamo andati anche insieme a pescare, già lo so. Ah, già è vero, come prendevo quelle orate grosse, già, madonna. Ma che compatte un'orata, se te ne ricordi, di dove c'erano i vascuri. Quello che c'era mi avanzi, che mamma mia, orate diesel erano quelle. Se ve ne annuncia i sorati, ma che ho tirato pure da 4-5 kg io li ho buttati via, un odore che non ti dico, perché quelle belle lo sai qual erano, quelle di muraglione alto, quelle sì che erano buone. Perché sono a mani di furi quelle, capito? Quelle vengono a mani di furi, vengono a mangiarsi le cozze. Ma sai cosa succede? Che le orate, quelle lì che peschi lì dove ci sono i vascuni, mangiano le cozze che ci sono lì, le cozze sono un filtro e filtrano tutta la bucaria che lampa la nave. Quando parte la nave una volta ho visto la schiuma, era durata un quarto d'ora galleggiando. Che schifo, ho detto qua vanno a pescare, io non ci verrei mai. Una volta solo sono venuto, frate, lo ricordi? Sono venuto una volta solo perché ce l'avete voi, sono venuto a trovarvi, boh, basta, però non ho pescato. Io lì non ci prendo gusto a pescare. Ma sai dove li stanno prendendo anche grosse? Lì alla spiaggia di Marinella, anche lì li prendi. Mi ha portato dove? Sì, alla spiaggia di Marinella lì, li prendi lì anche. E lì prendi le spigole più che altro, perché c'è quella fuoriuscita, c'è il passaggio di quel fiume, dai. E magari lì le spigole ci sono perché ci sono i mucchi. E lì le prendeva di maturi puro, ho visto gente prendere anche la 3 kg, solo che ci vogliono gli americani, uno ne ha preso due l'altra volta con l'americano, lì l'americano è micidiale, l'americano o la renicola, è numero uno in assoluto. L'americano è perché sanguigno e attira tutti i tipi di pesce, solo che se trovi pesce piccolo ti romagna. Però se ci sono pesci grossi, l'americano, io l'ho orata con la grande, non l'ho presa con l'americano, mi applattavo. L'americano è micidiale, non ce n'è. Subi cosa non bello. Ah, lo stesso di che ci buttavo io la prendevo minimo 6 scatole quando andavo a pescare, sì, mi. Americano, arenicola, bibi, canoricchi, ui, 50 euro d'esca. E non mi andarono mai a casa a bigliacchino. Vabbè, noi diciamo così, però a me mi serviva per rilassarmi, a me mi rilassa a pescare. Però deve imporrare, quindi deve esserci mangianza. Se non vuoi mangianza non mi piatti, che viene la paranoia. Ora se non pesco mi stufo e poi me ne vado. Quando non vedi neanche una toccata, in definitiva alla fine ti stufi. Prendo quelle canne là che ho per il porto, domani vado al mercato con le 50 euro, le attacco all'amo e due poni di sorada. L'esca di carta, non ce n'è. E te non c'è lo scherzo che gli ho fatto io, non dico io. Allora si poteva andare a Molocattaneo a pescare. E c'avevo i granculi, mi avevano regalato i granculi un amico che c'è a peschericcio. Mi ha detto già passa, alza lungo faro di la macchina che ti ha già saltato a pezzo e ti tiri questa cassa di granculi. Io ho preso la cassa di granculi e sono andato a pescare. Allora di pranzo ho telefonato a mia moglie e gli ho detto guarda che a pranzo non vedo che sono a pescare un carro, ma ho preso questa orata da 1,5 kg, un'altra da 900 grammi, 800-900 grammi, e le ho messe dentro una rete, c'era un chiodo attaccato al muro e le ho messo una lenza di quelle grosse e le ho messe a bagno per non rovinarci che c'era un po' di caldo. Si è telefonato a mio amico, gli ho detto oh non c'è amico che c'è granculi che non ce la faccio a consumare tutti, e ci scegli a pescare, ma mangia, sì, cazzo mangia bene. E Piliadura no, ancora no. Quando è sceso ho preso quella lenza dove c'erano attaccate le orate nella rete e mi sono buttati a cazzo non c'è, corre, corre, si è ammollato la sacca, correndo, è giunto, aiutami che pescare. interessante, aiutami. Tira l'acqua sembra migliorato i prete, un bastardo. I gran culi, fatto qui ci sono micidiali con le scarpe. Sì, il gran culo è per l'orata poi, cazzo non vinne. Una volta uno è venuto, stavo pescando, è venuto questo qui con la moto carrozzella, e Tasco, se ti chiedo una cortesia, non so se pretendo troppo, e siccome non lavoro, non è che mi fai fare un laccio qua, mi dai un gran culo e... Vabbè, ti ho dato il gran culo, metti il gran culo, cazzo, sembra che lo sia via. Ha lanciato, cosa ha aspettato? 10 minuti, le ha tirato un'orata, sarà stata 3 kg e mezzo, 4 kg. Ha detto la giornata me l'ho fatta, Pugli, grazie compà, ti devo una, qualche cosa da bere, quando ci troviamo ti offro da bere. Tu mi ho visto lei, però mi ha fatto piacere perché non lavorava e ce l'ha, ha detto adesso vado e me la vedo così mi faccio i soldi per la giornata a farmi la spesa. C'è gente che cazzo non sapeva l'orario, cosa ne gioca, a quel più sicuro andare. Sì, l'orario è sempre quello, 11:30, mezzogiorno, le 2:30, 4:30, dalle 3:30 alle 4:30, ma già quell'ora. No, ma io sono andato di mattina presto, fra, allora andavo alle 4 di mattina per prendermi il posto. Anzi, se sono arrivi ricchi mi verranno un weekend. Ho detto buongiorno, come si fanno? Lui si è girato, ha guardato e non ha salutato, ha detto guardi lì si forse. Si guardava con la. Metto le canne, metto i cucchiaini come cerealino, stavo mettendo una, poi vado a mettere l'altra e parte la prima. Casa che già mi mettava quella cosa di luce. Prendo un'oratina sui 500 grammi. Metto l'altra canna, casa che accompagnava, fra uno dopo l'altro, stavo impazzendo quel giorno, avevo l'adrenalina. Una dopo l'altra le prendevo, questo qui ha preso, sta rappando, le va in mare, si è avviato, si è incazzato lì. E anche con la sardina la prendo. Cosa? Anche con la sardina le prendevano lì al porto. Lo so, ma la sardina te la spappola il pesciolini, è diversa con l'esca, è un'esca particolare. Puoi mettere quella in più, però devi avere anche altra esca, tipo cannolicchi, i vermi sono micidiali, i vermi, gli americani, i bibi non li uso più io, gli americani però a gogo li uso, perché sono sanguigni e più di tutto, ma ho preso trite con un mio mussato di 10 anni lì al molo lì. Infatti i bibi sono soldi buttati, perché una volta che si svuotano ce li butti. Sì, e poi li mangia solo due tipi di pesce, non ha il sago, poi nessun altro pesce mangia il bibi, invece l'americano mangia i tutti i pesci. L'americano costa 8 euro la scatola. E ce ne sono, mi pare, 4 o 5, boh. E le farò pagare troppo. Allora, i bibi li vendeva anche di vicio, però sono quelli grandi, vedrà che anche io. Quelli li prendevano per innescare sul palamito e buco, capito? Li pescano, i pescatori li vendono, vivi, belli, sensibili. Ma sai cosa facevo l'amico io quando si sgonfiava? Rimettevo la pompetta di gomma. Per carità, aspetta un attimo. Vabbè, lo stesso così, ho abbassato un po' di qua. Va bene, a voi, avanti la c***a. Oh, Iui, dilli come c'è l'antenna fra a Gianni. Sì, già, praticamente c'è l'antenna a mezzo metro di punta fuori e il resto è tutta coperta dal muro. È per quello che non ci ha resa quell'antenna lì, capito? Ma tu non la piazzi la tua? Io la devo piazzare, adesso quando rientro, perché adesso parto, quando rientro me la piazzo già, capito? Cava, così ne tolgo quella che c'è. Dove ti sto dicendo, perché a Sirmione devi andare? Cava di positivo, frate. Bel posto quello, Tre volte ci sono stato, mi è piaciuto e ci sono ritornato. Era l'hotel Porto Azzurro. Vabbè, metti tutto fiorito all'entrata proprio del paese dove c'è l'arcata lì all'entrata, poi cigni, casi ci fai un effici dal ponte, le cappe, mani. È bello, bello perché ti giri tutto il lago di Garda, prendi la barchetta lì e ti giri tutto. Sei andato col motoscafo dove ci sono le acque, quelle che bolliscono proprio a 100 gradi, una cosa del genere, no, a 120 di profondità, ci sono delle acque che bolliscono. No, già, no. E non ci sono andato. Allora io sai cosa ho fatto? Ho visto una greffa di turisti, siccome quando sono in comitiva li fanno pagare meno, gli ho chiesto alla guida di questi turisti se potevamo entrare io e mia moglie e andare lì con loro. Sì, interessate che ci pagate il biglietto, sì, ho pagato il biglietto e ho pagato anche di meno, capito? Va bene, già, dai, io vi saluto che sto chiudendo, devo portarmi ancora la roba. Ciao Natalino, ciao Gianni, saluto eventuali SWL.